Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ricordiamo quello che è stata l'Unione Europea e quello che siamo. Di fronte a noi c'è l'alternativa che riguarda i nostri prossimi anni, perché l'alternativa è queste conquiste, questi valori, tra rimpiangerli e difenderli. Se non li difendiamo, li rimpiangeremo. E penso che di fronte all'Aula del Senato dobbiamo dire con coraggio che questo è il momento di difenderli per evitare di doverli rimpiangere. Difendere i valori, i principi europei per non doverli rimpiangere, così ha avvertito oggi il Presidente del Consiglio Gentiloni al Senato, dove si è data il via alle celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, quelli che nel 1957 dettero il via a questo sogno, quello che doveva essere un sogno per qualcuno è diventato un incubo, comunque diciamo un po' diverso dalle aspettative, quello della costruzione dell'Unione Europea così come oggi. Ne parleremo perché si parla anche di un allarme sicurezza, perché tutte queste celebrazioni culmineranno nel prossimo 25 marzo a Roma e si parla di possibili infiltrazioni di antagonisti da vari paesi d'Europa. Ne parleremo, così come ci occuperemo naturalmente del punto politico. È l'ultima puntata della settimana di Effetto Notte. Come sempre, da tradizione, facciamo un po' il bilancio della politica della settimana, dai voucher definitivamente soppressi fino a quello che è successo a Genova per quanto riguarda le comunarie per il candidato sindaco. Ne parleremo tra poco e così ci occuperemo anche di questo vertice, il primo alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e la cancelliera tedesca Merkel. Quindi tantissimi fatti anche oggi da raccontarvi, poi c'è il meteo, mille altre cose, quindi non perderò altro tempo se non ricordarvi che avete, per interagire qui con Effetto Notte, la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666 per i vostri messaggi, osservazioni eccetera, 349-238-6666 o pagina Facebook del programma. Tra poco quindi approfondiremo tutti questi argomenti, ma all'inizio, come sempre, la sintesi della giornata. Vertice Trump-Merkel, incontro teso alla Casa Bianca. Il presidente americano dice l'immigrazione non è un diritto. L'anniversario dei Trattati di Roma, c'è allarme per l'arrivo nella capitale di antagonisti di diversi paesi per gli eventi del 25 marzo. Addio ai voucher dal 2018, salta il referendum. Gentiloni sottolinea, metteremo in campo subito altre regole. La CGIL è soddisfatta, Prodi commenta, è un errore. All'Italia previsti 2.000 esuberi e tagli fino al 30% degli stipendi. I sindacati proclamano lo sciopero per il 5 aprile. Turchia, il premier Erdogan ai turchi dice comprate le auto migliori, vivete nelle case migliori, non fate tre figli ma fatene 5 perché voi siete il futuro dell'Europa. Genova, Grillo sconfessa le comunarie ed esclude la candidata Cassimatis. Nel nuovo voto il candidato sindaco diventa Pirondini. La scia infinita di femminicidi a Cirò in Calabria. La folla cerca di linciare davanti alla caserma dei carabinieri l'assassino di Antonella, uccisa l'8 marzo. E a Roma, in un'auto, un giovane avrebbe prima sparato alla ragazza accanto a lui, poi si sarebbe suicidato. Alimentazione, reintrodotto l'obbligo di indicare sugli alimenti lo stabilimento di produzione. Letteratura, addio a Derek Walcott, il più grande lirico dei Caraibi, importante narratore del XX secolo. Calcio, nei sorteggi di Champions League la Juve pesca il Barcellona ai quarti, rivincita della finale del 2015. Partiamo quindi dal vertice Stati Uniti e Germania, il faccia a faccia. Oggi la Casa Bianca è il primo tra il presidente americano Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel. C'è un po' di mistero, fra l'altro, su una stretta di mano, forse negata da Trump a Merkel. In ogni caso, il presidente americano ha detto in conferenza stampa che un'America più forte è nell'interesse di tutto il mondo e ha confermato il suo forte supporto alla NATO, ma ha ribadito le necessità che gli alleati paghino la loro giusta quota. Ed è tornato anche sul nodo immigrazione, un privilegio, secondo il presidente americano, e non un diritto. E alla luce del fatto, ha ricordato Trump, che dobbiamo tutelare i cittadini dalla minaccia terroristica. Una dichiarazione su cui la cancelliera Merkel ha puntualizzato: dobbiamo proteggere i nostri confini, ma allo stesso tempo bisogna guardare i rifugiati che scappano dalle guerre e dalla povertà. E nel corso di Effetto Notte ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. E poi l'anniversario dei Trattati di Roma. Oggi in Parlamento hanno avuto ufficialmente inizio le celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati che nel 1957 dettero il via a quella che sarebbe diventata l'Unione Europea, certo con diverse aspettative. Allora, sentiamo cosa ha detto il Presidente del Senato Grasso. E alcuni nostri cittadini hanno sviluppato sentimenti di disaffezione, di ostilità al progetto europeo che parte della politica ha sfruttato pericolosamente. Reagire chiudendosi, alzando muri fisici, ideologici e morali, è la negazione della nostra storia e non paga. Nessuno può sentirsi al sicuro, nessuno può fare da solo. Multilateralismo, solidarietà, diplomazia, pluralismo, questi sono i fondamenti del metodo che ci ha condotto fin qui, l'unico che ci porterà avanti. E come diceva, una settimana dalle celebrazioni per l'anniversario dei Trattati di Roma cresce anche la preoccupazione per possibili infiltrati nelle manifestazioni di protesta. Poi ci faremo raccontare da chi seguirà le varie iniziative, quali sono i principali eventi e anche gli effettivi rischi per la sicurezza. Poi l'altro tema, l'addio ai voucher, via libera da parte del governo all'abolizione dei buoni lavoro. L'idea iniziale era quella di introdurre dei correttivi e delle limitazioni, poi ci si è accorti che con molta probabilità non sarebbero state sufficienti a scongiurare il referendum del 28 maggio, da qui la scelta del PD fatta propria dal governo di accelerare arrivando al decreto che cancella i buoni lavoro, provvedimento che riporta indietro le lancette anche sulla responsabilità negli appalti. L'Italia non aveva certo bisogno nei prossimi mesi di una campagna elettorale su questi temi, spiega il Presidente del Consiglio Gentiloni. La nostra decisione azzera la situazione, sgombra il tavolo e in un certo senso apre una fase nuova. Useremo le prossime settimane, aggiunge Gentiloni, per una regolazione seria del lavoro saltuario e occasionale. I voucher esistenti potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre di quest'anno, spiega poi il ministro del lavoro Poletti, che ricorda. Se c'è una cosa impropria è collegare i voucher al Jobs Act, perché la storia dei voucher non c'entra niente con il Jobs Act, viene da una storia molto più lontana. Di successo parla intanto dalla CGIL la Camusso, soddisfatte Sinistra Italiana e 5 Stelle. L'abolizione dei voucher è un errore, commentano però da Forza Italia, critiche alla cancellazione dei buoni lavoro dal mondo produttivo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi la situazione difficile, che è un eufemismo dire difficile, di Alitalia, con i sindacati che bocciano il piano da 2000 esuberi e indicano uno sciopero per il prossimo 5 aprile. Un piano feroce di ristrutturazione, è prevalsa nettamente la logica finanziaria delle banche. Così la FILGGL, dopo l'incontro con Alitalia, che ha presentato il nuovo piano industriale giudicato inaccettabile dai sindacati, prevede 2037 esuberi per il personale di terra e un taglio agli stipendi per quello navigante del 22% per chi pilota sul lungo raggio, del 32% per gli assistenti di volo. A partire dal 2019 sarebbero invece previste 500 nuove assunzioni tra piloti e assistenti e si punta anche all'arrivo in 5 anni di 8 nuovi aeromobili. Ma nemmeno questo piace ai sindacati, che hanno indetto uno sciopero unitario di 24 ore per mercoledì 5 aprile. Ancora Nino Cortorillo della FILCGL. Ancora a dicembre ci raccontavano in via informale dell'arrivo di 25-30 aeromobili di lungo raggio e oggi ci hanno presentato una prospettiva di 8 aerei nell'arco di 5 anni. Lo chiamiamo piano industriale, però in realtà è un piano di ristrutturazione che consegnerà a questa impresa un qualche possibile nuovo acquirente. Le misure relative al personale sono dolorose ma necessarie, insieme alla riduzione dei costi, ha fatto sapere la Didi all'Italia Kramer Ball, assicurando il suo impegno a ridurre il più possibile l'impatto sociale del piano sul personale, insieme ai sindacati e con il sostegno del governo italiano, ha detto. Un incontro con l'azienda e i sindacati è previsto al Ministero dello Sviluppo Economico lunedì 20 marzo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica Grillo ha sconfessato le comunarie di Genova che avevano decretato candidata sindaca Marika Cassimatis, scrivendo sul blog che era venuta meno in varie fasi ai principi del Movimento 5 Stelle. Cassimatis si dice scioccata, aspetta ancora una spiegazione da Grillo. E intanto c'è stato un nuovo voto online che ha scelto come candidato a sindaco di Genova Pirondini. Lo si apprende dal blog di Beppe Grillo e poi torneremo a parlarne tra poco nel bilancio politico della settimana. Adesso dall'estero il premier turco Erdogan si scaglia ancora contro l'Europa, parla ai suoi fratelli turchi in Europa e dice loro: comprate le auto migliori, vivete nelle case migliori, non fate tre figli ma fatene cinque, perché voi siete il futuro dell'Europa. Questa sarà la migliore risposta, dice, all'ingiustizia che vi è stata fatta. Sulla decisione della Corte di Giustizia Europea che permette di vietare il velo islamico nei luoghi di lavoro inveisce Erdogan, dice: siamo stanchi di tutto questo, voi dite che è libertà di religione, io vi sfido a vietare la kippah, che sarebbe lo zucchetto rituale ebraico che però mettono gli uomini in testa. Libia: migliaia di libici hanno manifestato a Tripoli oggi contro le milizie che controllano la capitale libica, in una rara dimostrazione di rifiuto del loro strapotere, culminato di recente in 2 giorni di scontri che hanno trasformato la città in una sorta di campo di battaglia. E siamo di nuovo in Italia, purtroppo, per tornare a parlare di questa scia infinita di femminicidi a Cirò Marina in Calabria. Scene di rabbia manifestate da centinaia di cittadini davanti alla caserma dei carabinieri in occasione del fermo del presunto autore dell'omicidio di Antonella Lettieri. La donna di 42 anni è stata assassinata la sera dell'8 marzo dentro casa. L'uomo accusato del delitto è un bracciante agricolo di 50 anni, Salvatore Fuscaldo, inchiodato, secondo quanto ha stabilito l'indagine dei RIS, da tracce di sangue dello stesso gruppo sanguigno della donna trovate su alcuni abiti, sui sedili della sua auto. È stato un delitto feroce, dicono gli inquirenti. Antonella è stata colpita con 12 coltellate, altrettante martellate. Il suo assassino si è accanito sul suo corpo. Antonella si faceva amare molto in paese e lavorava come commessa nel negozio di alimentari del cognato. Ed è di poco fa la notizia secondo la quale i corpi di due giovani sono stati ritrovati all'interno di un'auto lungo la strada Valleranese in provincia di Viterbo nel Lazio. Da una primissima ricostruzione si ipotizzerebbe un classico ormai purtroppo omicidio-suicidio: il ragazzo avrebbe prima sparato dei colpi di pistola verso la ragazza accanto a lui uccidendola e poi si sarebbe suicidato. Un albanese di 35 anni è evaso dal carcere di Alessandria in Piemonte, dove era detenuto in un regime di semilibertà. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe approfittato di un problema tecnico delle telecamere e della videosorveglianza mentre effettuava alcuni lavori di pulizia nell'area tra il muro di cinta e il parcheggio antistante al carcere. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine. E adesso invece parliamo della reintroduzione da parte del Consiglio dei Ministri dell'obbligo di indicare nelle etichette degli alimenti lo stabilimento di produzione o confezionamento. Buone notizie per il Made in Italy. Lo stabilimento di produzione o confezionamento di un alimento deve essere indicato nell'etichetta. Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti lo schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare questi dati sulle etichette degli alimenti. L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma poi era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea sull'etichettatura. L'Italia ha stabilito la reintroduzione per garantire, oltre che una corretta informazione al consumatore, la rintracciabilità immediata degli alimenti da parte degli organi di controllo. Lo schema di decreto sarà inviato ora alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato per i pareri. La legge di delega, spiega il ministro delle politiche agricole Martina, affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato Repressione Frodi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di un lutto nella letteratura. È morto 87 anni il poeta Derek Walcott, primo premio Nobel per la letteratura nel 1992. Nella sua opera Walcott è riuscito a cogliere l'essenza della sua isola natale, Santa Lucia nei Caraibi, e a diventare uno dei più importanti narratori del XX secolo, considerato il più grande poeta della storia dei Caraibi. Poi oggi a Venezia, in piazza San Marco, c'è stata una tentata rapina da film con poi fuga, non riuscita questa rapina, fuga grazie a dei fumogeni sparsi, e poi i due rapinatori, almeno due appunto, pare si siano mischiati in mezzo alla folla dei turisti e quindi per il momento non sono stati identificati. Calcio, sarà Juve-Barcellona ai quarti di Champions. La mano di Rush, dimenticabilissimo centravanti degli anni 80 juventini, 29 presenze e 7 gol per la cronaca del tempo, disegna un tabellone dei quarti di Champions perlomeno bizzarro. Le teste coronate tutte a sfidarsi da una parte e le underdog dall'altra, anche se fra queste forse è ormai ingiusto inserire l'Atletico Madrid, due volte finalista negli ultimi 3 anni, e che infatti per premio si becca il Leicester vaso di coccio. Sarà contento quell'agonista di Bonucci che voleva il Barcellona per prendersi una rivincita sulla notte di Berlino. Sarà dunque Juve-Barsa l'11 aprile e poi al contrario il 19. La sensazione al momento è l'unica cosa che conta, e che Allegri non sia affatto sfavorito, anche se in carriera il Barcellona l'ha già incontrato 3 volte tra eliminazione diretta e finale e mai gli è andata bene. Speriamo sia la volta buona. Intanto sulle due partite meglio i catalani del Bayern Monaco, che tocca al Real Madrid. Tra Borussia e Monaco vediamo favoriti i diavoletti del Principato, che hanno appena fatto lo scalpo a Guardiola e al Man City. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con il calcio abbiamo concluso questo riassunto della giornata, come sempre. Stavo guardando i vostri messaggi, ne leggerei giusto uno prima di lasciarci, brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, poi voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Per esempio Lucio da Vicenza scrive: ho ascoltato che Grillo avrebbe messo il veto sulla candidata regolarmente scelta dal web tanto amato da Beppe. Io non ho parole. Dai fautori della legalità e trasparenza dei 5 Stelle arrivano, e non è la prima volta, decisioni autoritarie e viva la libertà. Tra poco ne parleremo, nel punto politico, nel bilancio politico della settimana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ho raccontate in sintesi, notizie principali della giornata. Adesso cominciamo ad approfondire i vari temi. Fra poco vi ricordo quali sono state le notizie principali in breve, se non avete acceso puntualmente alle 21. Voi intanto proseguite con le vostre interazioni. Tra poco riesco forse a aprire anche la pagina Facebook di Effetto Notte, dove c'è un piccolo blocco. Intanto però i messaggi anche al 349-238-6666. Dice Lorenzo: oggi qui a Venezia, in piazza San Marco, c'è stata appunto questa spettacolare tentata rapina, ricordo, in una gioielleria. Dice: con tanto di fuga riuscita grazie a fumogeni, la notizia ha fatto il giro del mondo, ma da voi non ne parla nessuno. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro Lorenzo. Sì, è vero, poi era su tutti i siti, ma a un certo punto è scomparsa come in un fumogeno, nel fumo, anche quella notizia. Il fatto è che per il momento è una tentata rapina, sono scomparsi in questo modo rocambolesco e per il momento non se ne sa più nulla. Vi ricordo allora, prima di fare il bilancio politico della settimana, quali sono le notizie principali di oggi. Primo vertice Trump-Merkel, un teso faccia a faccia, pare gelo sull'immigrazione, lui dice non è un diritto ma un privilegio, e poi c'è anche questo giallo sulla stretta di mano che forse Trump avrebbe negato alla cancelliera Merkel. Voucher addio dal 2018 per quanto riguarda i buoni lavoro in Italia, il presidente del Consiglio Gentiloni dice però metteremo subito delle nuove regole, salta quindi il referendum che era previsto per il 28 maggio, CGIL soddisfatta, Prodi dice è un errore. E poi all'Italia che annuncia ci sarà saranno 2000 esuberi, sciopero di 24 ore, quindi è stato indetto dai sindacati per il prossimo 5 aprile, lunedì stop dei controllori, il 40% dei voli della compagnia sarà cancellato. Erdogan, il premier turco, dice ai suoi connazionali: in Europa fate 5 figli, il futuro dell'Europa è vostro. E sul bando al velo dice vietate anche la kippah. Lo zucchetto che si mette che mettono in testa gli ebrei. Poi Grillo che sconfessa le comunarie di Genova ed esclude la candidata sindaca Cassimatis, lei dice si spieghi, non ho capito perché. E poi continuano le polemiche, la scia di polemiche dopo il salvataggio di Minzolini. Addio a Derek Walcott, il Nobel Lomero, considerato Lomero dei Caraibi. E poi avete sentito per quanto riguarda la Champions League, la Juventus ha pescato il Barcellona. Oh, quindi nel bilancio politico di questa settimana cosa abbiamo come principali argomenti? La soppressione tout court dei voucher, mi viene a chiamare proprio soppressione, e poi il salvataggio dalla decadenza prevista secondo la legge Severino di Augusto Minzolini di Forza Italia ieri al Senato, anche grazie ai voti, ai 19 voti del PD, e questo è stato lo scandalo, ciò che ha suscitato particolari polemiche. E poi la candidata sindaca di Genova dei 5 Stelle, metaforicamente defenestrata da Beppe Grillo, e se c'è stato un nuovo voto con un nuovo quindi candidato scelto nel tardo pomeriggio e in serata praticamente. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Bentornata Barbara. Buonasera a tutti. Allora, busta numero 1, numero 2 o numero 3? La tua preferenza. Cominciamo con un esame. Allora, dal salvataggio di Minzolini ieri al Senato, sappiamo che l'aula di Palazzo Madama ha votato no alla sua decadenza da senatore, ex direttore del TG1, oggi parlamentare di Forza Italia, poco prima aveva spiegato: qualunque sia l'esito mi dimetterò. Ma vogliamo sentire un passaggio ieri di Minzolini al Senato? Sono arrivato fino ad oggi, fino all'ultima tappa di questo calvario. Sono pronto a bere la cicuta. La storia dell'umanità, in fondo, è un lungo elenco di ingiustizie. Proprio oggi, 39 anni fa, fu rapito e ucciso quel galantuomo di Aldo Moro. Poi, qualunque sia l'esito della votazione di oggi, mi dimetterò da senatore, sicuro di avere la coscienza a posto. Quindi ha detto: sono vittima di una situazione kafkiana di ingiustizia. Berrò la cicuta, ricordando insomma Socrate, quindi dimettendosi. I numeri del voto hanno scatenato subito la polemica, perché appunto, dicevo, a favore di Minzolini hanno votato anche diversi del Partito Democratico. 19. È stata dura allora la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha detto: siamo in presenza di un voto di scambio. Il voto di scambio riferendosi al giorno prima, quando praticamente non era passata la mozione di sfiducia dei 5 Stelle nei confronti di Lotti, sempre al Senato. E poi c'è stato l'attacco molto duro di Maio, dei 5 Stelle, che ha detto: non vi lamentate se i cittadini vengono a manifestare in maniera violenta davanti al Parlamento. Allora direi di sentire questi due passaggi di Maio, prima quando dice appunto voto di scambio e poi con questa frase che è stata molto contestata. Siccome ieri Forza Italia ha salvato Lotti dalla mozione di sfiducia, oggi il PD e i renziani hanno salvato Minzolini di Forza Italia dalla decadenza. Questo per me si chiama voto di scambio e per me è un atto eversivo, perché c'è una legge dello Stato che dice che quel senatore non può fare più il senatore e invece continuerà a prendere il suo stipendio, la sua pensione, a sedere su quella poltrona perché il Senato gli ha salvato la pelle. Poi non si lamentino quando vedono che qui fuori ci sono delle manifestazioni di Bolkestein, di operatori marittimi, dei tassisti, e ci sono anche esplosioni di petardi, atti violenti. Non si lamentino, perché i primi violenti che vanno contro la legge sono loro. E questa frase ha suscitato appunto, diciamo, molte polemiche, perché è stato accusato di istigare alla violenza. Oggi persino l'Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, le ha definite parole sorprendenti, aggiungendo destano timore le sue dichiarazioni perché possono far alzare il clima di agitazione. Quindi Barbara, diciamo, una frase sicuramente infelice, però ha evocato questo sospetto di inciucio, di un come possiamo dire, di una resuscitazione del patto del Nazareno. Allora, patto del Nazareno, nel senso che poi la verità è anche, Di Maio lo sa meglio, molto meglio di noi, è che il voto su Lotti, i voti di Forza Italia, cioè i mancati voti di Forza Italia che è uscita dall'aula, non erano necessari, perché Lotti ha avuto 161 voti a suo favore, quindi la maggioranza assoluta. Sono stati semmai determinanti i voti dei verdiniani. Per quanto riguarda il caso Minzolini, secondo me invece va visto un po' diversamente. Va visto diversamente perché la platea di coloro che hanno votato contro la decadenza di Minzolini, quindi a favore della richiesta di Forza Italia di salvare Minzolini, è una platea piuttosto eterogenea. Per esempio, faccio un esempio, la Lega Nord, che con il Movimento 5 Stelle si era scagliata contro Lotti, nel caso di Minzolini ha votato come Forza Italia. Nello stesso Partito Democratico, in realtà, c'è stata quadruplicata. Sì, perché c'è chi si è astenuto, chi ha votato a favore, chi ha votato contro e chi non si è presentato in aula. E non solo, ma in questo gruppo del PD eterogeneo come posizioni non ritroviamo neanche le correnti, cioè non è che i renziani hanno votato pro o contro Minzolini, perché troviamo Mucchetti e Mario Tronti, che sono certamente due esponenti della sinistra, da sempre antirenziani, che hanno votato per Minzolini. E poi troviamo, non so, il senatore Marcucci, che è indicato come il renziano per eccellenza, che invece si è astenuto e l'astensione al Senato vale contro. Quindi, come diceva ieri una esponente del Partito Democratico, diceva: la nostra è democrazia, ognuno ha votato secondo coscienza, vuol dire? Ma allora, anche qui, e qui il Partito Democratico ci gioca, perché in realtà il Partito Democratico solitamente segue sempre le indicazioni della Giunta parlamentare. La Giunta parlamentare a luglio, la Giunta parlamentare per l'immunità, a luglio aveva votato all'unanimità contro per la decadenza di Minzolini. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo c'è stata la scissione del PD e, guarda caso, Doris Lo Moro, che di quel della su Minzolini era la relatrice e che anche in aula ha ribadito con forza la richiesta di una decadenza del senatore di Forza Italia, essendo adesso di un altro partito, l'hanno potuta scaricare più facilmente, probabilmente, oppure si sono addirittura presi una sorta di rivincita. Insomma, io direi che il caso Minzolini non è un caso di scuola che ci fa dire il patto del Nazareno. Piuttosto mi sembra molto più interessante invece gli effetti che questa decisione può avere sulla legge Severino, Perché che la legge Severino abbia delle, come posso dire, delle incongruenze, dei buchi, delle difficoltà interpretative, è abbastanza acclarato. Ecco, Barbara, allora su questa situazione acclarata, lasciami solo, perdonami perché non do mai nulla per scontato per gli ascoltatori, ricordiamo che la legge Severino, che doveva evidentemente valere anche per Minzolini, ma hanno deciso evidentemente di no, è quella legge che ha colpito anche Silvio Berlusconi e che considera... Ha colpito solo Silvio Berlusconi. Solo, infatti, diciamo, l'unica vittima, come possiamo chiamarla, della legge Severino, che prevede che in caso di condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione con una pena superiore a 2 anni, e ricordiamo che Minzolini, Augusto Minzolini, quando era direttore del TG1, era accusato e poi condannato in via definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo, accusato di peculato, cioè aveva speso con la carta di credito della RAI 65.000 euro in modo inopportuno, nel senso non erano stati giustificati questi soldi, era stato condannato a 2 anni e mezzo. Quindi in base alla legge Severino, siccome la pena supera i 2 anni, dovrebbe esserci immediata la sua decadenza dal suo ruolo pubblico, sì, che è quello di senatore. Vanno specificati alcuni fatti. Il primo, secondo me, è fondamentale, di carattere proprio costituzionale. Le Camere sono autonome nel decidere o no la decadenza da quest'organo? Cioè, sì, hanno questo... Attenzione, sì, perché pensare che per legge si decida la decadenza di un parlamentare può essere pericoloso. Per carità, non siamo più nel regime fascista. Adesso, anzi, siamo tutti molto attenti a valutare i comportamenti dei politici, però, come dire, c'è un principio di garanzia, che è l'autonomia poi del potere politico rispetto al potere giudiziario, che è una delle basi della democrazia, insomma, fin dai tempi della Rivoluzione Francese. Questo è un punto. L'altro punto è, però, per esempio, sempre ritornando al caso Minzolini, è che è evidente che qui si è deciso di salvare Minzolini, ma negli interventi che ci sono stati ieri in aula, e ripeto, la platea era molto eterogenea tra i salvatori, non solo nel PD, molti hanno messo in evidenza anche un altro aspetto su cui si sta discutendo molto in questo periodo, ovvero l'autonomia delle toghe, perché uno dei giudici che ha deciso la condanna di Minzolini era stato sottosegretario del governo Prodi, e allora si è detto, ma questo giudice è stato veramente terzo nei confronti di quello che poteva essere ritenuto un avversario politico? Si dice che a Minzolini non siano stati, no, si dice, è un fatto che non gli siano stati riconosciute le attenuanti generiche nonostante non fosse un pregiudicato, e che quindi questo ha portato la sua condanna a 2 anni e mezzo, e superando quindi il limite dei 2 anni previsto dalla Severino. Cioè, ci sono tanti aspetti che però sono a questo punto, evidenziati. Sì, Barbara, allora potrebbe essere una carta in più a favore di Berlusconi alla Corte di Giustizia Europea per dire devo ritornare candidabile, così per chiudere velocemente e passare a un altro tema? Certamente questa messa in discussione della Severino, secondo me, gioca a favore di Berlusconi, anche perché lo stesso presidente della Giunta per le immunità, Stefano, che è un ex SEL, quindi della sinistra, sostiene che insomma ci sono questa legge va in qualche modo rivista, vanno riviste soprattutto laddove c'è un problema di applicabilità, di interpretazione della legge, quando ci sono dei buchi. Poi è facile riempirli con un'interpretazione una volta a favore di uno e una volta a favore dell'altro. Senti, invece per passare al prossimo abbiamo o i voucher o forse meglio prima, visto che il tempo è quello che è, parlare della candidata sindaca di Genova di 5 Stelle che è stata ricusata da Beppe Grillo, che ha sconfessato l'esito delle comunali a Genova. Lei è Marika Cassimatis e quindi ha indetto oggi Grillo una nuova votazione online. Lui ha motivato la sua decisione dicendo per preservare i nostri principi, se qualcuno non capirà questa scelta vi chiedo di fidarvi di me. Allora sentiamo la Cassimatis che dice sono rimasta perplessa, non so spiegarmi. Sentiamo che cosa ha detto oggi sulla 7 a Tagadà. Anche io ho letto la notizia attraverso il blog, è uscito sul blog, quindi ne so esattamente quanto voi, e anzi siamo in attesa, prima di fare qualunque tipo di valutazione in merito, di conoscere quali sono gli elementi, i riscontri che vengono in qualche modo contestati a me, ma complessivamente la lista. Vorremmo capire in che modo, con quali documentazioni, in nome della trasparenza, che deve essere uno dei criteri, dei nodi fondanti del Movimento 5 Stelle. E poi c'è stato quest'altro voto e in serata è emersa la candidatura di Pirondini con oltre 16.000 iscritti certificati che hanno votato, anche se 4.000 hanno detto no a questa candidatura. Che ne pensi? Ci sono state le polemiche, dicono ma allora non è vero che è democrazia, che uno vale uno, decide sempre Grillo. Ma allora, premessa, è democrazia la scelta di un sindaco che avviene di una grande città con poche centinaia di voti? Il punto è anche questo, perché sennò il rischio che ci sia poi una guerra tra lotte intestine. Allora, quelli del PD portano alle primarie cinesi, no? Vi ricordate le polemiche sulle primarie, le file cinesi? Sì. Qui votano poche centinaia di persone la scelta di un sindaco di un partito che oggi, stando ai sondaggi, è il primo partito in Italia, quindi non stiamo parlando di un partitino, stiamo parlando del principale partito. Allora si pone un problema di democrazia, certo che si pone. Dico che a favore di Grillo, chi a volte ha dubitato, come dire, che il voto elettronico in qualche modo potesse essere pilotato, beh, questo voto invece dimostra che la Casaleggio Associati evidentemente non pilota, altrimenti avrebbero evitato questa figuraccia e come dire, avrebbero aggiustato prima le cose. Quindi così non è stato e quindi va merito alla trasparenza da questo punto di vista del Movimento 5 Stelle. Certo è che politicamente è una brutta pagina, nel senso che comunque la sensazione che si ha quando si ha a che vedere col Movimento 5 Stelle è che quando si è in dissenso con il capo si viene messo da parte, insomma. Cioè, il primo esempio eclatante fu Pizzarotti e mi sembra che si stia ripetendo un po' lo stesso errore. Lo definisco errore perché è sbagliato dire fidatevi di me, cioè il Movimento 5 Stelle non è un partito, nasce per democrazia diretta, a maggior ragione io non mi fido di te, ma non perché sei Grillo, perché comunque se ha senso esprimere una posizione, anche perché la cosa forse più corretta sarebbe stata, e questa è una cosa che non si capisce, come dire, impedire a questa lista, ma democraticamente, cioè spiegare i motivi per cui questa lista non poteva essere presentata o la candidata sindaco appunto a sua volta non poteva presentarsi in quanto tale per il Movimento 5 Stelle. Allora lì si sarebbe capito forse di più le motivazioni. Qui è apparso che una volta che hanno perso Grillo è corsa ai ripari, peraltro ricordiamo che Genova è anche la sua città, quindi insomma è una sconfitta abbastanza pesante, però io non credo che incita più di tanto poi sul Movimento 5 Stelle. Sì, perché continui a dire che dici che continua a essere comunque il primo partito, no? Dai sondaggi. Sergio, tassista di Milano, dice: Di Maio ha ragione, il 100% andrebbero indagati per ammutinamento della democrazia a proposito del caso Minzolini. Mentre un altro ascoltatore sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: Simone, una grande confusione regna sotto il cielo, voler sostituire le già fragili e inesatte regole democratiche con altre ugualmente inevitabilmente arbitrarie, dove tra cavilli, commi, patti e regolamenti alla fine chi decide sempre Ermeio io fico di Erbigonzo, dice insomma di Erbigonzo è Grillo. Direi, Barbara, di lasciarci a questo punto. Mi pare che sia stata una sintesi, un'analisi piuttosto consistente e quindi ti lascerei andare al tuo fine settimana e a chiudere la pagina del Sole. Grazie anche a voi e buon fine settimana a tutti. Ciao Barbara. E adesso ci prendiamo allora questa pausa per la pubblicità. Voi continuate con i vostri interventi, le vostre osservazioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Ringrazio questo ascoltatore, se lo ritrovo, perché usa un aggettivo che io uso spesso quando faccio un po' la mattacchiona anche nella vita privata, e dice: io ho una professionalità devastante. Ecco, mi piace questo aggettivo perché è esagerato, è anche piuttosto buffo. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi e delle notizie. Tra poco vi ricordo i fatti principali se non avete acceso puntualmente alle 21. Comunque finora abbiamo fatto soprattutto il punto politico della settimana riguardo in particolare al salvataggio ieri di Augusto Minzolini, senatore di Forza Italia al Senato, e poi anche di questa nuova vicenda che riguarda il Movimento 5 Stelle, cioè la sconfessione da parte di grillo delle comunali che ci sono state a Genova per candidare un sindaco tra il Movimento 5 Stelle, e quindi la candidata Cassimatis è stata esclusa, è stato levato il simbolo del Movimento 5 Stelle, di nuovo è stato fatto il voto e è stato scelto Pirondini. Polemiche su questa scelta, è comunque una questione interna al Movimento 5 Stelle. Dopodiché c'è un ascoltatore, Luciano, e voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, che dice: la Severino, dite che ha colpito solo Berlusconi, poverino, vogliamo dire il reato del candidato premier Minzolini è un giornalista che ha di fatto truffato la Rai, ma Berlusconi si candida a guidare il paese, non buttiamo le frasi senza entrare nel merito. Grazie Luciano. Dice: no, abbiamo detto che la legge Severino probabilmente contiene qualche incongruenza, da più parti si è chiesto di rivederla. Stabilisce che oltre i 2 anni di pena chi ha un ruolo pubblico, insomma di pubblico amministratore, deve decadere. Abbiamo detto che Minzolini è stato condannato a 2 anni e mezzo, al di là che i reati siano stati diversi, comunque insomma prevede la decadenza, anche se le Camere, abbiamo detto, hanno l'autonomia di decidere degli esponenti del Parlamento se o no farli decadere. Adesso però cambiamo argomento tra pochissimo e vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata intanto. Vertice tra Trump e Merkel, incontro teso alla Casa Bianca, il presidente americano dice: l'immigrazione è un privilegio, non è un diritto. L'anniversario dei trattati di Roma, ne parleremo tra pochissimo, c'è allarme per l'arrivo a Roma di antagonisti da diversi paesi per gli eventi del 25 marzo nella capitale. Addio ai voucher dal 2018, salta il referendum, Gentiloni sottolinea: metteremo in campo subito nuove regole, la CGIL è soddisfatta, Prodi commenta: è un errore. All'Italia previsti 2.000 esuberi e tagli fino al 30% degli stipendi, i sindacati proclamano lo sciopero per il 5 aprile. Turchia, il premier Erdogan ai turchi dice: comprate le auto migliori in Europa, vivete nelle case migliori, non fate 3 figli ma 5 perché voi siete il futuro dell'Europa. Genova, Grillo sconfessa le comunarie ed esclude la candidata Cassimatis, nel nuovo voto della serata il candidato sindaco diventa Pirondini. La scia infinita dei femminicidi a Cirò in Calabria, la folla cerca di linciare davanti a una caserma dei carabinieri l'assassino di Antonella, uccisa l'8 marzo, e a Roma in un'auto un giovane avrebbe sparato alla ragazza accanto a lui uccidendola e poi si sarebbe suicidato. Letteratura, addio a Derek Walcott, il più grande lirico dei Caraibi, importante narratore del XX secolo. E per il calcio, nei sorteggi di Champions League, la Juventus ha pescato il Barcellona ai quarti. In un mondo sempre più fondato su protagonisti di grandi dimensioni, di veri e propri giganti istituzionali, l'Europa non può rinunziare al suo ruolo e alle sue possibilità di influenza facendosi più piccola, traducendosi in realtà minori, destinata ad essere soltanto quasi spettatrici delle decisioni globali. Così ha parlato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, dando il via alle iniziative per celebrare il 60° anniversario dei Trattati di Roma, a partire quindi il via libera da queste celebrazioni in Parlamento che ci sono state, che culmineranno poi negli eventi del 25 marzo a Roma. Ma partiamo dall'omaggio oggi del Parlamento con la nostra Alessandra Schepisi, in diretta da Roma. Ciao Alessandra. Ciao Roberta, buonasera. Quindi oggi hanno parlato Mattarella, Gentiloni, la Presidente della Camera Boldrini, Grasso, no? Ci sono stati dei concerti anche in Parlamento. Sì, oggi davvero partenza ufficiale con questa conferenza straordinaria dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea, prima la Camera, poi il Senato, in mezzo poi un brindisi in Quirinale, una cerimonia che si è aperta sulle note dell'orchestra giovanile del Coro del Teatro dell'Opera di Roma, in cui si è appunto tracciato un bilancio di questa di quest'unione tra obiettivi raggiunti, mancati, sfide future, e tra insomma la linea più condivisa, il pensiero più condiviso tra i vari rappresentanti delle varie istituzioni, che non si può fare a meno di un'Europa unita, da soli non è possibile affrontare le sfide della globalizzazione, ma occorre un cambio di passo. C'era appunto a prenderla parola, dare il là, è stata la Presidente della Camera Boldrini, che ha detto: le posizioni anti-Europa non sono lungimiranti perché non danno soluzioni alternative, ma serve comunque un'Europa più sociale, più amica. Vogliamo sentirlo almeno il passaggio del Presidente della Camera Boldrini, sentiamolo. L'Europa per prima, Europe first, perché solo così faremo gli interessi dei nostri cittadini. e occorre farlo subito, con azioni realizzabili già ora a trattati vigenti. Occorre orientare le politiche economiche alla crescita e alla riduzione delle diseguaglianze. Occorre un'Europa che abbia una tripla A sociale e non solo finanziaria. Insomma, l'Europa sociale non può più attendere. Alessandra, tra l'altro ricordiamo ci saranno varie iniziative internazionali che culmineranno, appunto, abbiamo detto, il 25 marzo a Roma. Radio 24 seguirà giorno per giorno, no? Con te, Alessandra Schepisi, con Andrea Viali, Sergio Nava, e saranno schierate anche sul campo lì a Roma. Eh sì, allora dalla prossima settimana approfondimenti quotidiani, reportage per ripercorrere appunto gli obiettivi raggiunti da queste unioni, le sfide future, quindi tutte le tappe. Ci sarà un viaggio che ripercorre dalla nascita il 25 marzo del 57 con le tappe più importanti, Erasmus, Schengen, Euro, e poi si cercherà ovviamente di seguire tutti gli eventi, perché sono davvero tantissimi, organizzati in vista del 25, per citarne due che precedono il 25: il Digital Day del 23 promosso dalla Commissione Europea, del quale dovrebbe scaturire un impegno comune dei paesi europei sul digitale, e la visita a Norcia con la sessione straordinaria del Parlamento Europeo venerdì, appunto per testimoniare la vicinanza dell'Europa ai territori colpiti dal sisma. E poi si arriva naturalmente al 25, che è il sabato, la giornata dell'anniversario, che vedrà al Campidoglio la firma della dichiarazione di Roma da parte di tutti i leader dei paesi europei, naturalmente varie conferenze stampe, tra cui quella di Gentiloni, dei vertici delle istituzioni europee, pranzo al Quirinale, un grande concerto della European Youth Orchestra a Villa Medici. Alessandra, quindi ne avrete da seguire, noi appunto da raccontare insieme a voi qui a Radio 24. Senti, però la prossima settimana, con tutte queste cose che avverranno, si annuncia ad alto rischio, no, per l'ordine pubblico a Roma. Ma si parla di un allarme infiltrati che potrebbero venire da vari paesi fuori dall'Italia? Eh sì, c'è un allarme, una grande attenzione, perché appunto in vista del 25 marzo e poi soprattutto il 25 marzo, quella giornata è prevista, oltre alla marcia per l'Europa a sostegno del progetto europeo, cortei che confluiscono nella piattaforma Eurostop, che raccoglie varie sigle dell'antagonismo. E tra l'altro si teme il rischio di infiltrati anche stranieri e frange anche violente, tra cui antagonisti greci, francesi e tedeschi. Quindi è senz'altro una data segnata con il cerchietto rosso dagli apparati di sicurezza italiani. C'è abbastanza preoccupazione. Sono state predisposte già, pensate, diciamo, per quella data, due zone: una zona verde, una zona verde che attorno al Quirinale, che è una sorta di zona cuscinetto all'interno della quale non sono consentite manifestazioni, con tantissimi varchi di accesso per l'identificazione e il controllo, e una zona blu, una sorta di eurozona, in omaggio anche ai colori della bandiera europea, attorno a Piazza Venezia, dove graviteranno poi tutti i leader europei, e qui ovviamente sarà più difficile l'accesso. Grazie Alessandra Schepisi, quindi seguiremo da partire da lunedì anche qui da Radio 24. Ciao Alessandra. Ciao, buona serata, ciao. Direi che è tempo di aggiornare chi sta viaggiando, poi vorrei aggiornare anche Fabio che scrive, voi continuate con i vostri messaggi a pagina Facebook e al 349-238-6666. Fabio, ti aggiorno perché dici: siate completi, Berlusconi è stato condannato in via definitiva, mentre Minzolini è ancora la Cassazione. No Fabio, la Cassazione è già passata, la condanna è definitiva in terzo grado, quella di Minzolini a 2 anni e mezzo per peculato. Tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ve li ricordo in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi, la pagina Facebook anche quella è sempre con voi, giorno e notte. Vi ricordo tra le notizie principali, anzi la principale, vertice Trump-Merkel per la prima volta alla Casa Bianca, ne parleremo tra pochissimo collegandoci con gli Stati Uniti. Poi l'anniversario dei trattati di Roma, di cui abbiamo appena parlato, il 60° anniversario, c'è allarme per l'arrivo a Roma per il 25 marzo di antagonisti da diversi paesi per gli eventi appunto nella capitale. Addio ai voucher dal 2018, salta il referendum, Gentiloni sottolinea, metteremo in campo subito nuove regole. E poi all'Italia, previsti 2.000 esuberi e tagli fino al 30% degli stipendi. I sindacati hanno indetto uno sciopero per il 5 aprile. Genova, Grillo sconfessa le comunali, esclude la candidata Cassimatis. Nel nuovo voto il candidato sindaco diventa Pirondini. E poi la scia infinita dei femminicidi. A Cirò, in Calabria, la folla cerca di linciare davanti alla caserma dei carabinieri l'assassino d'Antonella, uccisa l'8 marzo. E a Roma, in un'auto in serata, un giovane avrebbe prima sparato alla ragazza accanto a lui, uccidendola, e poi si sarebbe suicidato. Per il calcio, nei sorteggi di Champions League, la Juventus pesca il Barcellona. We must protect our citizens from those who seek to spread terrorism, extremism and violence inside our borders. Immigration is a privilege, not a right, and the safety of our citizens must always Avete sentito Trump che dice l'immigrazione è un privilegio, non è un diritto. È tornato su questo nodo dell'immigrazione oggi, questo primo vertice tra Stati Uniti e Germania, nel senso con Trump per la prima volta si sono incontrati il nuovo presidente degli Stati Uniti Trump e la cancelliera tedesca Merkel. Ne parliamo con il nostro Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Salve, buonasera, ciao a voi. Senti, c'è un po' di mistero sul fatto che Trump avrebbe accolto Merkel sorridendo con una rapida stretta di mano, poi lei, quando erano seduti, sarebbe protesa verso di lui per stringere la mano e lui si teneva le mani strette tra le gambe. Che situazione è questa? Non so, il body language sicuramente tra i due e non è stato dei più... linguaggio dei del più, corpo, no? Dei più accoglienti. Dei, ecco. Più, dei più amichevoli. E l'imbarazzo, così, la scomodità del vertice era evidente durante tutta la conferenza stampa congiunta che hanno tenuto, una conferenza stampa, diciamo, al termine di un vertice, come dicevi prima, il primo vertice fra due grandi leader di due grandi potenze occidentali, un asse strategico, diciamo, no? per l'Occidente, due leader che però hanno molto poco in comune da un punto di vista così di stile, tanto riservata e diciamo tranquilla la Merkel, quanto flamboyant, diciamo, per usare un eufemismo, il Donald Trump, molte differenze sul piano politico, differenze che, ecco, se in questo vertice hanno forse rotto il ghiaccio, perché quantomeno si sono parlati faccia a faccia, ecco, il gelo però è rimasto molto forte sul fronte politico. Come ricordavi, le differenze sono state chiare sul fronte dell'immigrazione, sul fronte del commercio, sul fronte dell'ambiente non è neanche il caso di ricordarlo, ecco, gli unici terreni, l'unico terreno di maggior così avvicinamento è stato quello così dell'impegno generico e generale a favore della NATO, nonostante Trump abbia comunque ribadito la necessità che gli altri alleati della NATO al più presto, diciamo, paghino il dovuto in termini di contributi finanziari all'Alleanza Atlantica. Ecco, uno dei momenti più imbarazzanti e più strani, e forse a dimostrazione di tutta questo vertice teso, è avvenuto quando in realtà Trump ha usato la cancelliera Merkel come un prop quasi, per in realtà rilanciare le sue accuse a Obama, a Obama di averlo spiato, in questo caso accuse che sono gonfiate ulteriormente in un ulteriore incidente diplomatico con la Fox, alleato, la Gran Bretagna. Esatto, nelle ultime ore la Casa Bianca ha accusato la Gran Bretagna, citando fonti assolutamente inattendibili, un commentatore di Fox News ha accusato la Gran Bretagna di fatto di avere partecipato, complottato con Obama per intercettare le comunicazioni di Donald Trump e della Trump Tower, un'accusa respinta come ridicola dal governo britannico, e il governo britannico che aveva poi affermato di aver ricevuto assicurazioni dalla Casa Bianca che simili cose non sarebbero mai più state ripetute né in cielo né in terra. E tra l'altro stasera Trump Marco però ha rifiutato. Ecco, e tra l'altro ha detto io e Merkel abbiamo una cosa in comune, siamo stati tutti e due spiati da Obama, tutti hanno riso lì presenti tranne Merkel che è rimasta piuttosto fredda. Ecco, diciamo esatto, sintesi, diciamo che Merkel ha avuto poco da ridere di fronte a una battuta diciamo di piuttosto cattivo gusto. E come primo incontro diciamo non è che ha fatto particolarmente scintille. Grazie intanto a Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Ora invece non ci resta che sapere che tempo farà nel fine settimana e forse il nostro Paolo Corazzoni di Trebimeteo, nonostante sia portatore sano di sole, non ci deve dare buone notizie? Ma no, ma non è vero. Buonasera Roberto, ciao. Buonasera a tutti. Sarà un weekend più che discreto. Semplicemente domani ritroveremo magari qualche velatura in più, ma davvero nuvole di poco conto al centro-nord. Qualcuna in più in Liguria e in Toscana, ma senza precipitazioni. Domenica poi si spostano verso il sud Italia, ma davvero nuvole di poco conto e soprattutto weekend molto mite. Le temperature restano sopra i 20 gradi, quindi non ci possiamo lamentare. È settimana prossima, da metà settimana, che probabilmente le cose cambieranno. Tornerà un po' di pioggia, ma cara Roberta, ne abbiamo un gran bisogno, siamo in alcune zone in regime di siccità addirittura, quindi dai, insomma, che se arrivano va bene così. E vabbè, se ne abbiamo bisogno, va bene. Dai, esatto. Grazie. Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao. Grazie, Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. E ora noi ci riaggiorniamo come al solito molto brevemente alle 22.